che penso sia magari anche un tema ricorrente da quello che vedo. Siamo a Palazzo Pallavicini, siamo in compagnia di Chiara Spinnato, sono la fondatrice di Vertigo Syndrome, che ha organizzato la mostra di Soul Later qui a Palazzo Pallavicini. Possiamo fare un piccolo identikit di questo protagonista? Allora, Soul Later è uno dei capisaldi della fotografia del Novecento ed è considerato il pioniere della fotografia a colori, quindi è il primo che utilizza nel Novecento la fotografia a colori con intenti artistici e non per riviste di moda o per pubblicità. In mostra però noi troviamo non solo le sue foto più celebri a colori, ma anche, con la scelta di Anne Morin, la curatrice, una ampia selezione di foto in bianco e nero e di dipinti, perché lui nasce come pittore. Tra l'altro vedo dei temi molto particolari, che certo il colore, ma vedo un grande approccio anche con questo minimalismo di bianco e nero, di sfumato, che però, nonostante le caratteristiche che ho appena elencato, danno l'idea del colore. Sì, sì. La grande caratteristica di Soul Later è quella di stare attento al dettaglio. Quindi lui viveva a New York e tutte le immagini che lui cattura, che sono presenti in mostra, le realizza intorno al quartiere dove viveva. Quindi lui usciva con la sua macchina fotografica e coglieva questi dettagli. Quindi in una New York degli anni 50-60, dove era veramente il momento più, sì, diciamo così, roboante della città, lui sceglie invece questi dettagli, è proprio la sua cifra. Noi vediamo New York con sempre in un angolo particolare, lui fotografa dietro i vetri, dietro le vetrine, sempre un dettaglio che dà l'idea della storria che c'è dietro. Anne Morin, la curatrice, parla di haiku, cioè lui racconta, sì, delle piccole storie dentro a delle fotografie. Sì, riesce a portare la poesia nel lavoro che troviamo, anche nelle sensazioni. Veramente qualcosa che ti dà multisensoriale. Ecco. Sì. A proposito di multisensoriale, questa è proprio una delle caratteristiche delle nostre mostre. Noi diciamo sempre, non vogliamo fare delle mostre con solo i quadri appesi. Quindi Vertigo cerca sempre di realizzare delle mostre che parlino anche a chi non sa nulla del tema che noi, certo, raccontiamo. Quindi in questo caso, visto che Soul fotografava dietro a delle finestre, lui dice sempre: io preferisco fotografare una goccia di pioggia su un vetro piuttosto che un personaggio famoso. All'ingresso, subito, forse si sente in sottofondo, si trova una finestra con dell'acqua che scorre. L'allestimento proprio richiama questi filtri che lui utilizzava, cioè noi vogliamo fare un invito ai visitatori per provare a fotografare al modo di Soul Later. Certo. Sentirete, forse si sente in sottofondo, la musica, cioè abbiamo fatto una playlist che faccia immergere il visitatore, a proposito di multisensorialità, in questo mondo, il suo mondo che noi abbiamo associato a quello del jazz. E quale playlist, visto che anch'io abbino alle esposizioni, così magari posso rubare qualche consiglio? È una playlist creata appositamente per la mostra, ci sono i QR code lungo la mostra, quindi si può scaricare. Tantissimi visitatori, questa è la terza edizione di questa mostra, e tantissimi visitatori l'hanno scaricata e ci hanno ringraziato, perché davvero è... Dai. Anch'io l'ascolto sempre. Vediamo quanti abbinamenti ci sono anche con il gusto, sì, delle, sì, proposte di Radio Città Fujiko. E la mostra sarà in esposizione fino al 19 luglio, siamo aperti dal giovedì alla domenica. Lungo tutta la durata di questi mesi, ogni weekend ci sarà un evento collaterale, quindi una conferenza o proprio dedicata a Soul Later o comunque al mondo della fotografia inerente al tema della mostra, con grandi ospiti come Michele Smargiassi, Roberto Mutti, grandi esperti di fotografia e anche realtà del territorio. Un'ultima domanda, le sezioni, la divisione tematica, La divisione è non cronologica ma tematica. Il cuore della mostra è il My Room, che è questo approfondimento che Anne Morin ha fatto per Soul Later su queste fotografie che lui fa invece all'interno del suo studio. Di donne vedrete, sono, ecco, dire poetiche, dire poco, che lui fa nel suo studio alle sue compagne, alle sue muse. Ma una cosa a cui io tengo tantissimo è: non perdetevi il video all'interno della mostra, è un'intervista che è tratta dal video dedicato a Soul Later, dove lui si racconta, ottantenne, racconta la sua poetica. Io l'ho visto 30 volte perché è veramente di ispirazione per la vita, cioè come certo. affrontare i problemi del mondo. Sì. Quante opere? Sono 200 opere circa, 40 dipinti e il resto sono fotografie a colori in bianco e nero. Grazie, buona giornata. Grazie a voi.